as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, oggi ad il pane e rose, puntata musicale, arte, arte operaia, musica combattente, work class music, qualcuno l'ha definita così, quella della banda popolare dell'Emilia Rossa. Sentiremo, cioè, un pezzo solo per noi, perché A Emilia è nel nuovo album della banda popolare dell'Emilia Rossa. Potete ascoltare oggi, non è stata mai messa in nessuna radio, è ancora una novità assoluta. In anteprima per noi, qui a Radio Città Fujiko, ascoltiamo questo pezzo. Poi ci saranno due pezzi dal vivo, sempre della banda popolare dell'Emilia Rossa, e insomma adesso ci ascoltiamo l'intervista fatta a Paolo e Francesco. Ci sentiamo tra un po'. Abbiamo qui con noi Paolo e Francesco della banda popolare dell'Emilia Rossa, Biper. Ciao a tutti. Allora, l'avevamo annunciato puntate precedenti che avremmo fatto questa puntata speciale con voi, perché oltre ad essere dei compagni siete anche degli amici e siete anche tra i gruppi che io mando più spesso in radio, perché... E fai bene. Vabbè, la nostra trasmissione è una trasmissione cosiddetta operaia, parliamo di questioni operaie e... In Emilia-Romagna la banda più operaia che c'è è la banda popolare Emilia Rossa, cioè io ne conosco tante, c'è qualche rapper, qualcun altro così, però la banda obiettivamente, no? Perché sei mio amico, sei mio compagno, insomma di merende anche di altro, però obiettivamente, cioè, banda popolare Emilia Rossa ha fatto un altro album, 14 anni da quel 25 aprile a Modena che vi ha visti sopra quel furgone a strimpellare, eravate tutti operai, dove tu già non eri già funzionario, allora se non mi sbaglio, ma gli altri erano tutti operai di varie fabbriche metalmeccaniche. Su 14 anni avete fatto già diversi dischi e ogni disco vi abbiamo invitato a una trasmissione. Correttamente, ogni vostro disco si parla di cose importanti. Ho sentito un po' di news, mi hai mandato un po' di pezzi. E a Emilia Paranoica, io penso che iniziamo con questo e poi ne parliamo, perché in questo momento penso che sia il pezzo che più rappresenta la situazione, ok? Sentiamo il pezzo e poi dopo diciamo due parole su questo. Ascoltiamolo. Sempre chiesto come mai c'è una linea che da Reggio Emilia porta fino a Cutro, che sarà pure famosa per gli scacchi, e invece a Riace la linea non ci va. Poi mi guardo intorno e senza sosta vedo del cemento che si spande come lava. Ponti, case con planari, autostrade e cantieri, in questa valle dei motori, in questa valle di tumori. Ma non ci devi pensare, le mie così, grifate in vetrina per l'ecologia, purché sia privata, purché sia di mercato. Emilia Paranoica, Emilia Paranoica, Emilia fin da quando sono nato. Poi ripenso a quella linea fino a Cutro, e lo schifo che ci assale non è solo inquinamento, è la merda di montagna che ha ammazzato assieme allo Stato il compagno impastato, con la sola differenza che in Emilia il mafioso balla il liscio e mangia i tortellini. Ma non ci devi pensare, l'Emilia è così ben amministrata per la democrazia, purché omologata, purché sia schiavizzata. Andiamo a Reggio Emilia, al tunnel, a vedere i P38. Pirulla, lirulla, lirulla, sta bustarella che gioia mi dà. Pirulla, lirulla, lirulla, sta Emilia mi lavori mi fa. Allora, Paolo, qua si parla, insomma, di qualcosa molto, molto, molto pesante, eh? Parliamo di un'Emilia di cui spesso si è parlato, sì, ma che la gente non crede tanto, no? Pensare all'Emilia come posto di mafiosi, speculazioni edilizie, insomma, speculazioni mafiose, tranchetiste, ma uno nell'opinione pubblica, insomma, non se lo immagina, eppure siamo infiltrati fino all'osso, no? Beh, io direi che, ahimè, l'alluvione e la disgrazia che è arrivata con questa alluvione, ahimè, purtroppo si collega perfettamente a questa canzone che abbiamo scritto, perché è evidente che, insomma, è stata una tragedia annunciata, il frutto di una cementificazione, di una speculazione devastante. L'Emilia Romagna è al primo posto per cementificazione in zone alluvionali, il che la dice davvero lunga. E ovviamente, come dire, questa canzone che è stata scritta ovviamente prima di questa tragedia, ma insomma raccontava quello che questi fatti, ahimè, hanno sbattuto davanti agli occhi di tutti. E chiaramente, come dire, questo è un pezzo che, diciamo così, si inquadra bene anche nel titolo dell'album, che è sempre dalla parte del torto, esattamente perché, come dire, come amava dire Brecht, diciamo così, noi stiamo dalla parte che questo sistema ritiene sbagliata, e cioè appunto degli ultimi, degli oppressi e quant'altro. E ovviamente anche in questa tragedia chi ci rimette, chi ci rimetterà, ovviamente saranno le classi popolari, e quindi la classe lavoratrice e le classi subalterne. Questo LP, io ho ascoltato qualche pezzo, alcuni pezzi sono vecchi perché alla fine non li avete registrati, ma comunque sono girati, li abbiamo anche mandati in radio, sono girati nelle piattaforme social. È un altro album che io posso chiamare World Class Music, no? Perché siete tra i pochi a fare una vera e propria musica world class, e non vi nascondete. Tra un po' ci farete sentire uno dei pezzi che a me personalmente piace, perché è il pezzo dei Gang che io ho sempre amato in fabbrica, e devo dire, l'ho ascoltato un po' così, e devo dire, adesso ce lo farete ascoltare dal vivo. Un pezzo fantastico che a me, da operaiaccio che sono, mi piace particolarmente, soprattutto per il messaggio che manda. Ma sì, diciamo che l'abbiamo riarrangiato, poi qui lo imbastiamo piano e voce, ma naturalmente il pezzo ha tutte altre caratteristiche quando lo ascolterete nel disco. È un vecchio pezzo dei Gang che nel disco appunto cantiamo assieme ai Gang, perché appunto sono stati molto felici di prestarci questa loro canzone, e a questa canzone noi abbiamo cambiato il finale come testo, perché abbiamo pensato proprio alla lotta della GKN e alla lotta delle fabbriche che oggi stanno difendendo i loro posti di lavoro. Ovviamente una canzone che come dire, racconto in maniera, se vogliamo, ironica, quanto faccia schifo andare a lavorare in fabbrica, nel senso quanto sia duro e quant'altro, ma alla fine la modifica che abbiamo fatto è per dire: ma se la fabbrica ce la portano via, allora noi dobbiamo fare com'è in GKN o com'è in altre aziende che stanno lottando, cioè per difendere il posto di lavoro e quindi per difenderla quella fabbrica che può andare avanti tranquillamente anche senza padroni. E noi del Pane Rose chiaramente non è che siamo favorevoli di più, e ascoltiamoci questo pezzo bellissimo dal mio punto di vista. Capo, capo reparto, rallenta la catena, che voglio restar vivo prima che suoni la sirena. E cento all'ora, e cento pezzi devo fare. Non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, più, più, più. Come vorrei che fosse ieri, vorrei un fine settimana, ma oggi è lunedì e ricomincia la catena. E sempre, sempre avanti, per una sporca busta paga, ma chi c'è stato sa che la fabbrica è una gallera. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, più, più, più. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Ma se la fabbrica, ci portate via. La fabbrica, non ve la diamo più, più, più. Sentite che vi canto, non ci serve chi comanda, noi ce la prendiamo e rialziamo la serranda. La fabbrica, noi non ve la diamo. La fabbrica, non ve la diamo più. La fabbrica, noi non ve la diamo. La fabbrica, non ve la diamo più. Allora Paolo, lo sapevo, pezzo bellissimo, il finale mi piace più dell'originale. Hai ragione, la penso, ci sta, il finale così è molto più carino dell'originale. Ci abbiamo qui Francesco con noi, ho sentito un pianoforte, davvero, a alti livelli. Troppo, decisamente troppo buono. No vabbè. Io sono il clarinetto, pensate se dunque c'è quando incontro un pianista, metto, cioè tanto di cappello, davvero bello, cioè devo dire mi è piaciuto tantissimo. Francesco, musicalmente questo album mi sembra che siete cresciuti tantissimo, io ho ascoltato dei pezzi, sempre più l'influenza degli Area, io la sento sempre, anche se avete spaziato altri generi, perché avete collaborato con tantissimi. Con chi avete collaborato? Adesso non me li ricordo tutti. Beh, in questo disco, tra i primi che citiamo, sicuramente i Modena City Ramblers, che hanno partecipato con noi alla cover di un brano che penso che sentiremo tra poco. Ah sì, poi l'ascolteremo dopo. E i Gang che abbiamo già citato. E abbiamo Kento. Kento, rap, esatto. Sì. Marcello Coleman. Marcello Coleman in Always Antifa, insieme a altri amici. E queste sono solo le piccole collaborazioni di questo disco. Allora, io penso che questo disco poi sia importante perché non dobbiamo dimenticare, e ricordiamo a tutti, metteremo anche il link nella pagina di Facebook del Pane Rose, che è stato costruito in crowdfunding, come l'altro, poi tra parentesi, perché se siamo, siamo coerenti contro le speculazioni, il mondo della musica non è che, ne, insomma, sappiamo benissimo che succede, insomma, quando tocca avere a che fare con major o case di produzione, il crowdfunding vi permette di dire quello che volete, di fare quello che volete, soprattutto a noi che vi finanziamo la musica che ci piace. Insomma, sì, insomma. Sì, questo è assolutamente vero, è una cosa che naturalmente ci rende molto orgogliosi, soprattutto il fatto che la risposta tutte le volte che organizziamo un crowdfunding è sempre eccezionale, e naturalmente anche il modo per acquistare il disco, quindi per fortuna abbiamo già superato, come dire, l'obiettivo minimo che ci eravamo dati per poterlo realizzare, però naturalmente ovviamente si può, anzi si deve continuare ad acquistarlo, perché appunto è il canale per poterlo ricevere. Naturalmente, come dire, è una scelta, ma è anche una scelta obbligata la nostra, perché ahimè in questa fase, ripensavo giusto oggi alla storia, appunto hai citato gli Area, all'epoca c'era un canale alternativo, c'erano etichette discografiche alternative, come per esempio la Cramps degli Area, che era gestita da Gianni Sassi all'epoca, che era, come dire, un filantropo, ma era anche uno con idee rivoluzionarie, idee comuniste, come anche gli Area stessi. E ovviamente c'era un circuito alternativo che permetteva alla musica come la nostra di poter vivere e avere canali di diffusione. E oggi questa cosa fondamentalmente non c'è più. Cioè, io spero che ritorni, speriamo che ritorni, anche perché ce n'è davvero bisogno. Ma appunto, siccome ad oggi questo non c'è, noi ovviamente utilizziamo questa forma di autofinanziamento. Cioè, non è una scelta di principio in sé, ma è una scelta che ha alla base appunto l'elemento di fondo. Cioè, che non è che noi facciamo musica per vendere, cioè non è che facciamo musica per piacere e quindi per accontentare qualcuno che sta sopra di noi. Noi facciamo musica per creare coscienza, per trasmettere dei messaggi di rivolta, di sovversione contro questo sistema e, come dire, guarda caso, non c'è un'etichetta discografica, un'agenzia che sia molto interessata a questo genere di musica oggi, e quindi ci arrangiamo, come non ci pieghiamo, ecco. Infatti adesso noi andremo ad ascoltare tutti insieme una canzone che se era prima... mi piaceva, cioè piaceva a me in maniera molto, insomma, era autobiografica quasi. Lei è una canzone che fa riferimento ai nostri ideali, a quello che noi vorremmo, che non dobbiamo dimenticare. È una canzone che è molto, molto rivoluzionaria. Io penso adesso andiamo a ascoltarci uno dei pezzi che fa la differenza a livello di coscienza, no? Per creare quello che tu hai detto, cioè cercare di creare la coscienza di classe. Poi alla fine è stato così. Avete iniziato il 25 aprile a Modena, hanno detto basta, cioè facciamo non una semplice musica con oltre gli slogan, facciamo della musica combattiva. Su quel camioncino non siete mai scesi, quel camioncino, continuate a star lì, e lì avete iniziato con le canzoni rivoluzionarie, continuate, e lei è una, rappresenta proprio questo. Adesso ascoltiamoci lei e poi ci salutiamo, Paolo. Così intrigante, come una fidanzata o un amante, una ragazza appena risvegliata al canto d'una piazza soleggiata. È lei che è bastonata, inseguita e braccata, è lei che si rivolta sopra ogni barricata, è lei che è incatenata, tradita, imprigionata, che ci insegna a non mollare e non l'abbandonare mai più, mai più. Vi tesserò di lei un profondo omaggio, frutto delicato, fior selvaggio, un albero imponente e secolare che ondeggia in libertà senza tremare. È lei che è bastonata, inseguita e braccata, è lei che si rivolta sopra ogni barricata, è lei che è incatenata, tradita, imprigionata, che ci insegna a non mollare e non l'abbandonare mai più, mai più. Preziosa, sincera e delicata, una rosa. Il nome suo tenete ben presente, è rivoluzione permanente. È lei che è bastonata, inseguita e braccata, è lei che si rivolta sopra ogni barricata, è lei che è incatenata, tradita, imprigionata, che ci insegna a non mollare e non l'abbandonare mai più, mai più, mai più, mai più, mai più, mai più. Paolo e Francesco, anche qui pezzo a livelli incredibili di... Oh, cioè, mia figlia suona il pianoforte, guarda, l'avrei portata stasera a sentirti. Ok, dico perché, appunto, cioè, specifichiamo, noi siamo nati nelle fabbriche come metalmeccanici, ma adesso a suonare nella banda, oltre a esserci tre metalmeccanici, ci sono quattro musicisti, che sono musicisti veri, musicisti professionisti. Si sente. E si sente anche, e che... sono musicisti, ma sono, è come se fossero operai come noi, precari, musicisti precari in catena di montaggio, in catena di montaggio con dei salari di merda come i nostri, quindi. Allora Paolo, noi qui ti salutiamo, che il tempo è quello che è, e ti dico, guarda, faccio l'appello al crowdfunding della banda di Emilia Rossa. Troverete sulla nostra pagina Facebook Il Pane delle Rose, sui vari post ci saranno link per finanziare questo progetto. Andate ad ascoltare anche quando li sentirete, ci vedrete insomma in giro i loro concerti. Purtroppo dovevamo suonare il 2 giugno alla Festa Nazionale dell'Ampi, ma l'hanno rimandata per la questione dell'alluvione, ovviamente. Quindi ci vediamo alla prima data, il 17 giugno a Mantova. Ok, mi raccomando, chi può vada a vederli, a sentirli. Io vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao. Ci stanno umiliando senza pietà, calpestano il lavoro e la dignità, fabbriche come caserme e polizia, questa è la loro democrazia. La Padania disprezziamo, il tricolore rifiutiamo, la sola cosa che rimane da fare, ribellarsi e cominciare a lottare. È ora di alzare la testa, tempo di dire basta, la nostra bandiera è la rossa. Grazie operaio, alla riscossa! È ora di alzare la testa, basta, la nostra bandiera è la rossa, classe operaia alla riscossa. Allora, oggi, come vi avevo detto, puntata artistica, musica della banda popolare Emilia Rossa, quando riusciamo a invitare dei compagni, degli artisti, operai, insomma, dei musicisti in radio e registrare dal vivo dei pezzi è sempre molto bello. Purtroppo non riusciamo spesso a farlo, però quando riusciamo lo facciamo, soprattutto con i compagni, con gli amici della band come oggi abbiamo avuto. Ecco, io vi invito di nuovo a fare donazioni al crowdfunding della Banda Popolare dell'Emilia Rossa. Troverete nel post su Facebook, nella pagina Il Pane e le Rose o nella mia pagina, chi mi segue. Mi raccomando, è anche un modo per acquistare l'album. Avete sentito, il 17 giugno saranno in concerto. Mi raccomando, supportate chi fa musica non per fare soldi, ma per mandare un messaggio, e il messaggio è: speriamo che la lotta di classi diventi sia sempre più forte e si arrivi a un cambiamento radicale delle cose nel nostro paese e in tutto il mondo. Vi saluto, alla prossima puntata. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.